Noi riteniamo che bisogna fare un controllo sistematico, perché bisogna identificare queste zone e in queste zone bisogna bloccare la produzione. Se l'Italia in qualche modo non ottemperasse, non è ben chiaro cosa l'Europa potrebbe fare. Ce lo può spiegare? Se l'Italia, diciamo, se le misure prese dal governo nazionale, in questo caso dall'Italia, non sono sufficienti, la Commissione può prendere delle misure di salvaguardia e imporre queste misure al governo italiano e alla regione Campania. Quindi se il governo italiano non dovesse prendere queste misure urgenti che noi chiediamo, noi possiamo adottare un provvedimento urgente a livello comunitario. Ma di fatto potreste imporre un bando di questo tipo di prodotto? Quando c'è un problema di questa contaminazione, non è il primo che succede, diciamo, non è l'unico caso quello della Campania, in genere si chiede di fare dei test in modo che il prodotto che viene sul mercato, quindi il latte che viene utilizzato, è un latte indenne, è un latte senza contaminazione, quindi è importante fare dei test, non è che si impone un bando, si chiede, si dice soltanto il latte testato e garantito sicuro può essere utilizzato per la produzione di mozzarella. Avete avuto segnalazioni anche dagli altri paesi europei, non è ben chiaro se questa mozzarella contaminata è stata esportata. Voi dal vostro osservatorio di Bruxelles che idea vi siete fatti? L'idea, diciamo, noi riteniamo che quello che ha detto il governo italiano è vero, che per il momento la distribuzione è stata soltanto una distribuzione locale, perché non abbiamo avuto delle prove di, diciamo, prodotti contaminati trovati sul mercato. Abbiamo avuto molte domande, diciamo, ma per adesso non c'è stata alcuna prova di prodotti contaminati sul mercato, quindi riteniamo che quello che il governo fino adesso ha scoperto è vero.